La scorsa settimana, lo scorso lunedì, abbiamo appunto tenuto, chiamato all'interno dello student hostel, questo tavolo di discussione e confronto alla presenza di diverse parti, quindi c'è stato il prorettore degli studenti, Federico Condello, dell'Università di Bologna, c'è stato il presidente della Fondazione RUI, che attualmente appunto paga insomma un affitto all'ex amministrazione dell'Istituto Zoni, e appunto c'era anche Massimo Golinelli, ex amministratore, anzi amministratore dell'ex Istituto Zoni, e c'era una delegazione di Chasing Project, quindi noi. È stato un tavolo che, devo dire, ci ha sorprese, perché abbiamo riscontrato una comune preoccupazione comunque rispetto al tema della crisi abitativa che permea Bologna, no? Ultimamente, negli ultimi anni, quindi c'è questo sfondo comune, è presente e si è visto anche nel momento in cui ci sono state proposte soluzioni alternative anche a quelle che avevamo pensato inizialmente noi, no? Quindi da parte specialmente del dottor Golinelli c'è stato appunto proposto, per riuscire ad uscire in tempi abbastanza brevi dallo stabile, che appunto dovrà prima o poi, in cui dovranno insomma iniziare i lavori per farlo diventare uno studentato, quindi appunto, come abbiamo detto fin dall'inizio, non c'è alcun interesse da parte nostra a fare guerra tra studenti e studentesse, o appunto a impedire che questi lavori per lo studentato vengano iniziati, assolutamente. Quindi da parte del dottor Golinelli c'è stata una buona proposta, sia quella di riuscire a cercare comunque una sistemazione in strutture o dislocate o in una struttura unica, adesso vediamo, per le persone che stanno all'interno dello stabile, ecco, che quindi fanno fatica a dire va bene, usciamo subito, perché non hanno un posto dove andare, mentre nel momento in cui magari qualcosa si riesce a tirare fuori, appunto come abbiamo detto fino all'inizio, lo studentato deve essere nelle mani di studentesse e studenti, non nelle mani appunto di chi adesso ci abita per forza, e che quindi le chiavi appunto verranno riconsegnate immediatamente nel momento in cui questa cosa si darà. Poi abbiamo avuto un altro incontro solo con il dottor Golinelli, che appunto ha riconfermato questa sua volontà nel cercare di aiutarci a vicenda, nel cercare di trovare delle soluzioni concrete, che seppur appunto chiaramente non strumenti per risolvere la crisi abitativa, anzi si è scontrato forse anche lui con questa dura realtà, comunque potrebbero essere un simbolo concreto, un simbolo tangibile di buone prospettive insieme, anche perché appunto il progetto di Glitch Housing non si ferma assolutamente a uno stabile fisico a Viale Filopanti, punto, ma ha delle prospettive molto più ampie, e quindi questo potrebbe essere un buon punto di partenza. Ci saranno nuovi incontri? Si era parlato di un secondo incontro, anzi un terzo incontro. Sì, noi adesso stiamo cercando di mettere nuovamente in contatto tutte le parti del primo tavolo, quindi tra pochi giorni, appunto appena avremo le conferme delle varie parti, richiameremo un tavolo pubblico, sempre con l'auspicio che questa situazione può avere un finale diverso da quello che a cui siamo abituati, no, sulla liberazione di stabili, cioè nel senso, noi ci auspichiamo che in questo momento si dia spazio alla politica e che quindi questa cosa venga trattata come un problema politico e non come un problema di ordine pubblico, ecco, è veramente importante, ed ecco perché tutti questi tavoli di trattativa e confronto, perché stiamo parlando di questioni politiche e non di questioni di ordine pubblico.